ladro in fuga questa notte. Inverno è andato via, ha lasciato a marzo un cielo incerto e a me la dolcezza delle sere sotto il patio e la speranza, l'allegria del tuo bere, lo stupore di trovarci ancora qui. Ci si affaccia al nuovo sole e dai profumi del giardino, con l'umore del risveglio in un bel giorno di festa, quando per ore d'ozio ti abbandoni al tuo pensare. Ed è facile il ricordo ritrovarsi sulla strada per tornare a un paese rimasto tra i vigneti e il tramonto sull'Appennino, dove tra case di tufo si aggira la mia ombra. Forse qualcuno passerà mentre me ne sto qui seduto e con un cenno del capo ci saluteremo, come fanno gli anziani per strada, proprio come una volta l'abitudine dei miei passi mi porterà fino alla porta di casa ed entrerò tra l'odore e le cose di ieri. Qui l'immagine di noi resta immobile e questo è tutto, è la mia realtà con la sua semplicità. Aprono passando spazi incontenibili, cieli ancora intatti in cui come le nuvole girano i miei pensieri ad altezze che non so, sopra i campi coltivati per intrecci di strade dove si va. Ma un paese che resta tra i vigneti e il tramonto sull'Appennino, dove tra case di tufo si aggira la mia ombra. Forse qualcuno incontrerò che di spalle sta rincasando, con un gesto abituale ci saluteremo come vecchi amici per strada, proprio come una volta l'abitudine dei miei passi mi porterà fino alla porta di casa e troverò quell'odore e le cose di ieri, qui più limpido che mai. Il ricordo di noi e il senso è tutto, è la mia realtà con la sua semplicità.